sì, come sta questo cor? Qui dentro, amica, qui dentro si combatte, e più quel'trove quello pugne crudele. Oh, come io tremo, come palpito adesso, e la cagione, è deciso il mio fato, vede il candro che arriva.